D'altra parte, uno spilungone alto 6 piedi con una mogliettina che non gli arriva alla catena dell'orologio. Per le lunghe e per le brevi. L'articolo il. Stranissimo che l'orologio. Gli orologi a polso non vanno mai bene. Chissà se c'è un'influenza magnetica tra la persona. Perché era circa l'ora che lui. Sì, direi immediatamente. Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Mi ricordo di aver dato un'occhiata in Pill Lane. E anche questo è magnetismo. Dietro a tutto c'è il magnetismo. La Terra, per esempio, tira a sé ed è tirata. E questo genera movimento. E il tempo? Beh, è il tempo che ci vuole per il movimento. Poi, se una cosa si fermasse, tutta la baracca si fermerebbe, pezzo per pezzo, perché è tutto collegato. L'ago magnetico si dice quel che succede nel sole, nelle stelle. Pezzettino d'acciaio. Si avvicina alla calamita. Vieni, vieni. Tac! Come l'uomo e la donna. Calamita e acciaio. Molly e lui. Si mettono in gingheri e guardano e alludono e ti fan vedere e ti fan vedere di più e ti sfidano se sei uomo a vedere. E come quando arriva uno starnuto. Le gambe. Guarda, guarda se hai sangue nelle vene. Tac! Dovuto scaricarmi. Chissà cosa prova lei da quelle parti. La vergogna è una finta per quando c'è qualcun altro. La scombussola di più un buco in una calza. Molly, mascella in fuori, testa indietro, per quel colono in stivali e speroni al concorso ippico. E quando c'erano gli imbianchini in Lombard Street West. Bella voce aveva quel tale. Così ha cominciato Giulini. Senti l'odore. Come fiori. Non c'era che dire. Violette. Forse era la trementina nella vernice. Sanno metter tutto a profitto. Mentre faceva quel lavoro, strusciava la ciabatta sull'impiantito perché non sentissero. Ma ce ne sono molte che non sanno concludere, mi pare. Restano in sospeso per ore. Una specie di generale tutto in giro e fino a metà schiena. Aspetta. Sì, è il suo profumo. Perché ha fatto cenno con la mano? Ti lascio questo perché tu pensi a me quando sarò lontana sul cuscino. Che cos'è? Eliotropio? No, giacinto. Rose, mi pare. Le dovrebbe piacere un profumo come questo. Dolce da poco prezzo, si guasta presto, perché a Molly piace l'opoponax. Le si addice, mescolato a un po' di gelsomino, le sue note alte e quelle basse. Al ballo la sera che l'ha incontrato, danza delle ore. Il calore lo faceva sentire. Vestiva di nero e c'era ancora il profumo dell'altra volta. Buon conduttore il nero, oppure cattivo. La luce anche. Credo ci sia qualche rapporto. Per esempio, se vai in cantina dove c'è buio, è una cosa misteriosa anche. Perché l'ho sentito solo ora? Ci ha messo del tempo a venire, proprio come lei, lenta ma sicura. Credo che siano tanti milioni di particelle portate qua dal vento. Sì, è così. Perché quelle isole delle spezie, quelli di Ceylon stamani, si odorano a leghe di distanza. Ti dico io cos'è. È come. Un velo fine, ho una ragnatela fine che hanno sulla pelle, fine come si chiama? Fili di vergine e te la filano fuori tutto il tempo, fine come nient'altro, come colori d'arcobaleno senza saperlo. Resta attaccato a tutto quel che si leva di dosso, il piede delle calze, scarpa ancora calda, busto, mutande, un calcetto per levarsele. Arrivederci alla prossima volta. Anche la gatta ci prova gusto a odorarle la camicia sul letto. Riconoscerebbe l'odore tra mille. Acqua del bagno anche. Mi rammenta le fragole con la panna. Chissà dov'è poi veramente. Là, o le ascelle, o sotto il collo, perché esce da tutti i buchi e gli angolini. Profumo di giacinto fatto con olio o etere o qualcosa del genere. Ramius che sacco sotto la coda, poi Un granellino manda profumo per anni e i cani a odorarsi dietro. Buonasera. Sera. Come annusi? Benissimo, grazie. Gli animali si riconoscono così, ma sì, a guardare da quel punto di vista. Siamo lo stesso. Alcune donne, per esempio, se sono in quel periodo, tengono a distanza. Avvicinati, ho un puzzo da attaccarci il cappello. A cosa assomiglia? Aringhe in scatola andate a male, oppure, bah, si prega di non camminare sull'erba. Forse anche loro ci sentono addosso l'odore di maschio. Ma che cos'è? Guanti appestati di sigaro che Long John aveva sul tavolino, l'altro. Il fiato dipende da quel che si mangia e si beve. No, odore d'uomo, voglio dire. Deve essere qualcosa che ha a che fare con quello, perché i preti, che si suppone non sono diversi, le donne ci ronzano attorno come le mosche alla melassa. Separate dalla griglia, si avvicinano all'altare più che possono per arrivarci. L'albero del prete proibito. Padre mio, le spiace di... Lasci che sia la prima... Si diffonde per tutto il corpo, lo permea, fonte di vita. Ed è curiosissimo l'odore. Salsa di sedani. Lasci che... Mr. Bloom ficcò il naso. Nella. Apertura del panciotto. Mandorle. Oh, no. Limoni, ecco. Ah, no, questo è il sapone. Oh, a proposito, la lozione. Lo sapevo che c'era qualcosa. Non ci sono tornato e non ho pagato il sapone. Mi secca portarmi dietro bottiglie come quella strega di stamani. Heinz avrebbe potuto darmeli, quei tre scellini. Potevo fare il nome di Makar per ricordarglielo. Però se mi fa mettere quel trafiletto, 2 scellini e 9 pence. Avrà una cattiva opinione di me. Passerò domani. Quanto le devo? 3 e 9? 2 e 9, signore. Ah! Un'altra volta forse non farà credito. Si perdono i clienti in quel modo. Succede ai bar. La gente lascia che il conto si allunghi sulla lavagna e poi svicola dietro per frequentare un altro locale. Ecco quel nobile che è passato dianzi. Saltato fuori dal mare. È andato fin lì ed è tornato indietro. Sempre a casa all'ora di pranzo. Sembra imbalsito. Si deve essere impinzato a dovere. Ora a godersi la natura. Benedicite dopo i pasti. Dopo cena una bella passeggiata. Certo che ha un conticino in banca da qualche parte. Funzionario Gover. Andargli dietro ora, innervosirlo come me quegli strilloni ieri. Però si impara sempre qualche cosa. Vedersi come ci vedono gli altri. Purché non ci scherniscano le donne. Che importa? È il modo di scoprire le cose. Chiediti chi è ora, l'uomo misterioso della spiaggia. Racconto a premio di Mr. Leopold Bloom. Pagamento in ragione di una guinea a colonna. E quel tale oggi vicino alla fossa con il Macintosh marrone. I calli nel suo kismet, comunque. Bene alla salute, forse assorbono tutto il... Fischiare fa piovere, dicono. Ce ne deve essere in qualche posto. Il sale all'Ormond era umido. Il corpo sente l'atmosfera. Le giunture della vecchia Betty le fanno vedere le stelle. La profezia di Mamma Shipton a proposito di navi che volano attorno al mondo in un battibaleno. No, vuol dire pioggia. Almanacco. Ed i lontani colli sembrano approssimarsi. Oath, faro di Bailey. 2, 4, 6, 8. 9. Vedi? Deve cambiare, se no potrebbero prenderlo per una casa. Gli sciacalli del mare. Grace Darling, la gente che ha paura del buio. Anche lucciole, ciclisti, ora ad accendere le luci. Gioielli, diamanti, splendono di più. Donne, la luce è come rassicurante. Non ti farò del male. Meglio ora, si capisce, che in altri tempi. Strade di campagna, ti bucavano le budella per 4 soldi. Anche oggi ti puoi imbattere in 2 tipi, musone o sorridente. Pardon, di niente. Il miglior momento per spruzzare le piante anche è all'ombra dopo il tramonto. Ancora un po' di luce. I raggi rossi sono i più lunghi. Vance ci aveva insegnato Ragvive, rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto. Ecco una stella. Venere? Non si sa ancora. Due? Quando ce n'è tre è notte. C'erano già quelle nuvole nere? Sembra un vascello fantasma. No, aspetta. Sono alberi. Illusione ottica. Miraggio. Terra del sole calante questa. Sole dell'autonomia che tramonta a sud-est. Oh, mia terra natia, buonanotte. Vien giù la rugiada. Non fa bene, cara mia, star seduta su quella pietra. Provoca perdite bianche. Mai avere un piccino, a meno che sia grosso e forte e si batta per aprirsi il passaggio. Mi potrei buscare le emorroidi anch'io. Appiccicoso come un raffreddore estivo. Bollicina sulla bocca. Tagliarsi con l'erba o la carta. I peggiori tagli. Frizione del sedile. Avrei voluto essere la pietra su cui sedeva, piccolo tesoruccio, non sai quant'eri carina. Cominciano a piacermi a quell'età. Mele acerbe, afferrano tutto quel che capita sotto mano. Penso che è l'unico caso in cui noi incrociamo le gambe stando a sedere. Anche la biblioteca oggi, quelle laureate, beate le seggiole dove siedono, ma è l'influsso della sera. Sentono tutte queste cose, si aprono come fiori, conoscono le ore, girasoli, carciofi di Gerusalemme, nelle sale da ballo, lampadari, viali sotto i lampioni. Viola ciocca nel giardino di Matt Dillon, dove la baciai sulla spalla. Vorrei avere un bel quadro a olio di lei a quel tempo a figura intera. Era anche giugno quando le facevo la corte. L'anno ritorna, la storia si ripete. Picchi e montagne, ancor sono tra voi. Vita, amore, viaggio intorno al proprio piccolo mondo. E ora? Triste per lei, zoppa, naturalmente, ma bisogna stare in guardia e non intenerirsi troppo. Ne approfittano. Tutto tranquillo sull'Oth ora. I lontani colli sembrano, dove noi, i rododendri. Sono uno sciocco, forse. Lui mangia i fichi e io le bucce. È la mia parte. Tutto quel che ha visto la vecchia collina. I nomi cambiano. È tutto qui. Amanti. Yam, yam. Stanco mi sento ora. Devo alzarmi. Oh, aspetta. Mi ha succhiato tutto quel che avevo di virile, brutta birbona. Mi ha baciato. Mai più. La mia giovinezza. Non capita che una volta, o la sua, andarci col treno domani. No, il ritorno non è la stessa cosa. Come quando da piccoli si torna nella stessa casa. Mi ci vuole del nuovo. Niente di nuovo sotto il sole. Fermo posta, ufficio postale di Dolphin's Barn. Non sei felice, ah? Ragazzaccio. Le sciarade a casa di Luke Doyle a Dolphin's Barn. Matt Dillon è quella nidiata di figlie, Tini, Atti, Floy, Mamie, Louie, Etty. Anche Molly, era l'87, l'anno prima che noi, e il vecchio maggiore che ci teneva al bicchierino. Curioso, lei figlia unica e io figlio unico. Così ritorna. Credi di sfuggire e vai a sbattere in te stesso. La via più lunga è anche la più corta per tornare al punto di partenza. E proprio quando lui e lei, cavallo del circo che cammina in tondo, si faceva la sciarada di Rip Van Winkle. Rip, strappo nel soprabito di Henny Doyle. Van, furgoncino del pane che fa le poste. Winkle, telline e bicornette. Poi feci Rip Van Winkle che torna a casa. Lei appoggiata alla credenza a guardare. Occhi moreschi. A dormire 20 anni nella valle del sonno. Tutto cambiato. Dimenticato. I giovani sono vecchi. Il fucile arrugginito per la rugiada.